Queste riflessioni sono rivolte a chi pensa di essere un comune mortale e di avere delle reazioni comuni a tutti. Come ogni essere umano, tutti vorremmo fare l'esperienza con il soprannaturale, e per molti questa esperienza trascendentale consisterebbe nel vedere un angelo, un grande miracolo, o addirittura Gesù Cristo. Se potessi vedere con i miei occhi queste cose, si sostiene, potrei credere in Dio e consacrarmi a Lui. Non è possibile giudicare buono o cattivo un simile atteggiamento perché solo Dio conosce i cuori degli uomini, ma è possibile verificare nella storia se le persone che hanno avuto a che fare con il soprannaturale hanno reagito conformemente alla promessa di credere in Dio e di consacrarsi a Lui. È vero che nel nostro cuore vi è l'opinione di essere migliori degli altri. Quindi, siamo portati a pensare che se gli altri non sono stati toccati dal soprannaturale, noi crederemmo, ma se ci riteniamo dei comuni mortali o crediamo di avere delle reazioni comuni a tutti, dovremmo accettare l'esperienza del prossimo quale monito per destabilizzare il nostro pensiero di unicità e superiorità. Così, quando la maggioranza delle persone hanno un tipo di reazione nei confronti di una causa soprannaturale, dobbiamo mettere seriamente in dubbio di essere diversi o migliori. Se di fronte ad un improvviso scoppio tutti hanno paura, io posso anche pensare di non reagire con un sentimento di paura, ma non per questo io non faccio parte della maggioranza delle persone. Le nostre convinzioni non sempre corrispondono alla realtà. E per essere realisti, è sempre meglio ritenere che le reazioni del prossimo sono comunemente le nostre. Parliamo dunque del soprannaturale, mettendo in evidenza che una nostra particolare esperienza nel campo spirituale non porta come inevitabile risultato né una fede in Dio, e neppure non suscita sempre una consacrazione alla causa di Cristo. Di tante figure che prenderemo in esame, forse il discepolo di Gesù, Giuda l'Iscariota, è il più evidente. Giuda stette con Gesù per alcuni anni. Vide i suoi miracoli, ascoltò le sue uniche e mirabili parole, udì alcune delle sue preghiere, ricevette più volte atti di amore e di comprensione da parte del suo maestro, eppure non fu minimamente toccato, tanto è vero che poté tradirlo e consegnarlo nelle mani dei suoi nemici. Se le esperienze spirituali positive potessero costringere o far arrendere i cuori malvagi, Giuda l'Iscariota apparterebbe a questa schiera. Spesso si legge la storia del popolo di Israele in modo distaccato, ma la storia del popolo di Dio è stata scritta anche per farci comprendere che il nostro atteggiamento nella sfera del soprannaturale spesso non si discosta da loro. Un episodio miracoloso, unico nel suo genere, è stato certamente quello nel corso del quale il mare si divise in due. Credo che nessuno di noi è in grado di capire cosa si prova nel vedere un mare diviso e passare tra due muri di acqua alti vari metri. L'esperienza per il popolo di Israele deve essere stata veramente traumatizzante, al punto che dopo aver attraversato il Mar Rosso all'asciutto, il popolo, come si dice, non stava più nella pelle e cominciò a cantare. Così leggiamo nel libro dell'Esodo. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno, e parlarono dicendo: «Io canterò all'Eterno perché si è grandemente esaltato. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. È il Dio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un uomo di guerra. Il suo nome è Jahakafoeaka. Egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i suoi migliori guerrieri sono stati sommersi nel Mar Rosso». Esodo 15.2-25. Che festa doveva essere per il popolo di Israele? L'esperienza che avevano fatta era stata fuori dal comune. Erano elettrizzati di gioia, cantavano e ballavano dalla felicità. Aveva una infinita riconoscenza verso il loro Dio. E quel giorno certamente si sono proposti di seguire l'Eterno per tutti i giorni della loro vita. Del resto la riconoscenza verso Dio è l'esperienza comune a tutti quando sperimentiamo delle liberazioni particolari. Credo di non aver sentito mai una preghiera simile a quella fatta da quella ragazza che era scampata ad un incidente stradale mentre due altri suoi compagni di viaggio erano morti. Credo di poter dire che le parole e lo spirito con la quale pregava e parlava non appartenevano alla normale realtà quotidiana. Così ho presente altre persone che in un momento di profondo dolore si sono espresse in un modo che loro stesse ne erano stupite. Questo succede perché la profondità del dolore, come quella della gioia, producono gli stessi effetti. Trasportano le persone in un ambiente a loro non familiare, usando di conseguenza parole e atteggiamenti non comuni. O per dirla con l'Apostolo Paolo, quando si è deboli allora si è forti in Dio. Dunque il soprannaturale produce reazioni rare, perché condotte dallo Spirito Santo, ma queste non sono sufficienti per dare una continuità alla vita spirituale. Poco dopo l'esperienza di aver attraversato il Mar Rosso, il popolo mormorò perché era senza acqua, Esodo 15.24, e solo dopo un mese, il loro mormorio si trasformò in un'ingratitudine espressa con parole inopportune e offensive. Poi essi partirono da Elim, e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse nel deserto di Sin, che è fra Elim e il Sinai, il 15° giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. E tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: o fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà. Poiché voi ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. Esodo 16, 1-3. Sembra incredibile che dopo solo un mese da un'esperienza soprannaturale, dopo tanta gioia e gratitudine, un popolo intero abbia detto delle parole così pesanti. Mosè ed Aronne, uomini che avevano osato esporre la loro vita per il popolo, uomini che con coraggio si erano messi alla testa di circa 2 milioni di persone, ora erano oggetto di scherno e della lamentela di tutto un popolo che rivolgeva loro l'accusa di farli morire tutti nel deserto. Ben presto i figli di Israele avevano dimenticato le sofferenze e le angustie che erano stati costretti a sopportare per poter sopravvivere e con presunzione sostenevano di aver avuto carne e pane a volontà nel paese d'Egitto. Ora brontolavano che l'Eterno li aveva condotti in un deserto per fare morire tutti di fame. Una reazione questa da noi certamente condannata, ma il comportamento del popolo di Israele non si discosta dalla comune reazione dei più, i quali ricevono ogni giorno dalla vita beni e benedizioni e poi si lamentano davanti a Dio quando le cose non vanno nel verso giusto. Altre persone fanno eventualmente esperienze soprannaturali come la ragazza uscita illesa dall'incidente, ma anche lei ben presto dimenticò il miracolo accaduto e uscendo viva da un incidente dimenticò la preghiera e lo spirito di gratitudine verso Dio e non solo mancò di riconoscenza ma abbandonò la fede che da vari anni aveva professato. Il soprannaturale per il popolo di Israele e per la ragazza dell'incidente non fecero nessun effetto duraturo. Fu un fuoco di paglia che ben presto si spense. È molto probabile che ci sia ancora in noi la convinzione che davanti ad evidenti interventi divini crederemmo che se avessimo un chiara ed inequivocabile dimostrazione dell'intervento di Dio, o addirittura vedessimo apparirci Gesù, porremmo in Lui la nostra fede, ma troppi esempi del passato e anche del presente ci dimostrano quanto sia inefficace il soprannaturale. Quando Gesù guarì un cieco nato, il miracolo era evidente e nessuno poteva mettere in dubbio l'intervento di Dio, eppure alcuni farisei non credettero. Quando uno zoppo presso la porta del Tempio fu guarito tramite Pietro, tutto il Sinedrio e i Sadducei ne erano a conoscenza, eppure questi non credettero. Quando Gesù morì e risuscitò i suoi discepoli, non credettero se non dopo varie prove. Credere al soprannaturale non è poi così facile come ci sembra, perché con il nostro ragionamento possiamo vanificare ogni dimostrazione soprannaturale. Che il soprannaturale non sia facile da credere, lo disse anche Gesù, quando raccontò l'episodio di Lazzaro. Nel racconto l'uomo ricco nel luogo di perdizione chiedeva un atto di misericordia, ma questa gli fu rifiutata. Allora, mosso da un attimo di pietà, fece questa richiesta ad Abramo: Ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverta severamente, e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Quello disse: No, padre. Abramo: Ma se qualcuno dei morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli gli disse: Se non ascoltano Mosè i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. In questo episodio, Dio, simboleggiato da Abramo, afferma che credere al soprannaturale è tanto difficile quanto credere a ciò che è scritto nella parola di Dio. La fede che occorre nel credere ad un morto risuscitato è la stessa nel credere che la Bibbia sia la parola di Dio. Anzi, Dio ha detto che chi non crede alla sua parola non può credere ad un morto risuscitato. In effetti Gesù è risuscitato, chi crede? Nella sua resurrezione. Quando Tommaso seppe che Gesù era risuscitato rimase incredulo, ma quando lo vide credette, e Gesù rispose: Perché mi hai visto, Tommaso? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Giovanni 20:29. Vuoi ancora vedere il soprannaturale per credere o per consacrarti a Dio? Gesù chiama beati, cioè felici e benedetti da Dio, coloro che credono senza avere fatta l'esperienza del soprannaturale. Conviene far parte di questa schiera perché, come abbiamo visto, non hai nessuna garanzia di credere al soprannaturale. Aprile 2006. Ellero.